Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 7 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti per questa mezz'oretta d'aria con Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che, come molti di voi sanno, fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. A presentarvi le notizie di oggi e partiamo da Bari. Bari, in carcere da innocenti, 250 casi in 3 anni nel distretto. Lo leggo da Quotidiano del Sud, scritto da Vincenzo Damiani. Perché davvero dovete sapere che, stando a quanto rileva la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, in una relazione che è intitolata Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari, dovete sapere che nel 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risarcito ben 78 persone per ingiusta detenzione. E dopo che la Corte di Appello di Bari ha preso atto che gli imputati erano stati prosciolti, assolti in via definitiva e dopo ovviamente la revisione. In pratica lo Stato ha sborsato 2,5 milioni di euro per ripagare, se mai fosse possibile ripagare, il tempo di una vita, di mesi anche trascorso in carcere, di uomini e donne che erano finiti in carcere da innocenti. È veramente un numero allarmante. Ma anche negli anni precedenti era così? Purtroppo devo ammettere che è un trend che si riconferma anche nelle 3 annate precedenti. In 3 anni, leggo dal rapporto, dal 2017 al 2019 i risarcimenti per ingiusta detenzione nel distretto della Corte di Appello di Bari, che comprende anche Foggia e Batte, sono stati 250 per un totale di 8,5 milioni di euro di indennizzi riconosciuti. Nel 2017 ce ne sono stati 94 di episodi di carcerazione ingiusta e nel 2018 78, proprio come nel 2019. E dovete sapere che la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è inoltre prevista agli articoli 314 e 315, come giusto che sia, del codice di procedura penale, e la disciplina si applica anche ai casi di errore giudiziario. Insomma, Caterina, la giustizia italiana si rivela piuttosto fallibile. I dati rilevano questo, che ogni anno sono numerosi i casi di errori giudiziari che causano anche la detenzione ingiusta, a volte anche per anni. E sempre nell'incredibile triennio 2017-19, evidenziano i magistrati della Corte dei Conti, è stato rilevato un progressivo aumento della spesa pubblica in termini di impegni di competenza per i casi di errori giudiziari o ingiusta detenzione. Nel 2020 naturalmente è un anno particolare, c'è stata una lieve diminuzione, anche se ovviamente bisogna tenere conto del Covid che ha abbassato, diciamo, il numero delle persone all'interno delle carceri. E quindi ci sono vite che scorrono ingiustamente senza libertà. Sì, alcune volte la custodia cautelare dura mesi e sono momenti davvero strappati alla vita di qualcuno che poi in tribunale viene spesso dichiarato innocente. La legge italiana prevede però, dicevo prima, un risarcimento per ingiusta detenzione. Ed è la stessa Costituzione ad affermare che la legge deve determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Certo, nessuno potrà mai restituire anni di vita persi e il marchio stesso che una detenzione può stampare sulla vita di una persona, però il procedimento penale esiste e costa ogni anno allo Stato milioni di euro. Pensate che dall'indagine sviluppata dalla sezione del controllo, esaminando un campione di ordinanze irrevocabili, tuttavia è emersa una difforme applicazione dei criteri di liquidazione di tali ristori da parte della Corte d'Appello, cioè sembra, tradotto, che vengano pagati di meno rispetto a quanto dovrebbero essere risarciti, e quindi questo suggerisce l'opportunità di un monitoraggio giusto del Ministero della Giustizia per l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari per i quali si potrebbero prefigurare gli indennizzi. Ma una canzone, una pausa, un secondo, e rimaniamo con i Queen, Somebody to Love, sempre bellissima da ascoltare, e ci rivediamo tra pochissimo su Eduradio. Can't Rieccoci e bentornati. E oggi con Antonella abbiamo in previsione un libro che però parla di una pratica molto molto grave nei confronti delle donne, vero? Raccontaci. Sì, anzi guarda, te la racconto subito, però proprio Somebody to Love in questo caso sono le donne, visto che hai messo prima un bel pezzo di Queen meraviglioso, però vi racconto un attimo la storia di una vita coraggiosa, che è quella di Nice Nantelei Longhete, che è diventata oggi ambasciatrice mondiale di Amref Health Africa, contro le mutilazioni genitali femminili. E è addirittura inserita dal Time, dal prestigioso Time, tra le 100 persone più influenti al mondo. Ed è la storia commovente di una bambina e poi di una donna ribelle, che viene raccontata da lei stessa nel libro Sangue, la storia della ragazza Masai che lotta contro le infibulazioni, edizione PM, che ormai si trova anche in libreria. E perché era una storia importante? Perché è la storia di una scrittrice che è un'attivista keniota, Masai, come vi dicevo, nata in una sperduta cittadina al confine tra il Kenya e la Tanzania, che da piccola perde entrambi i genitori e è appena un po' più grande, solo a 9 anni, si rifiuta di subire la pratica dell'infibulazione e con l'aiuto della sorella maggiore fugge via dal suo villaggio. Come potete immaginare, da quel momento in poi per lei la vita diventa complicatissima, fa una vita da reietta perché non c'è spazio nella cultura Masai per una donna che si ribella. Ma Nice non si dà per vinta e fa della lotta alle mutilazioni genitali femminili la sua missione. Inizia a girare l'Africa e poi il mondo intero, incontrando persone solidari e portando avanti un messaggio veramente rivoluzionario, fino poi a diventare portavoce di un'importantissima campagna umanitaria, il cui obiettivo è quello di abolire le mutilazioni genitali femminili entro il 2030. Il 2030, Caterina, è un anno importantissimo per un sacco di cose. Noi ci auguriamo veramente che sia anche un anno fortunato a questo punto. E, per chiarire intanto di che cosa si tratta, le MGF, le mutilazioni genitali femminili, si riferiscono a procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altre lesioni ai genitali femminili per motivi non medici e di solito vengono eseguite da un circoncisore tradizionale con una lama e senza anestetico. E sebbene sia internazionalmente riconosciuta come violazione dei diritti umani, si calcola che siano circa 68 milioni le ragazze in tutto il mondo che rischiano di subire questa pratica prima del 2030. Ricordavi giustamente il 2030, un anno importantissimo anche per gli obiettivi dell'agenda sul clima, ma chiaramente anche per queste realtà più nascoste. Allora io ti chiedo se questa autrice sta riuscendo un po' a cambiare le cose anche con la pubblicazione di questo libro, fare luce su una verità purtroppo esistente. Guarda, è veramente un'eroina perché quella giovane donna ha salvato quasi 20.000 ragazze dal taglio, una mutilazione che secondo i dati di AMREF viene subita nel mondo da 200 milioni di donne e bambine, come abbiamo anche un po' accennato prima. E il problema è che segna l'ingresso nella vita adulta della comunità, il riconoscimento, l'accettazione, la sottomissione, ma che per tante può anche significare la morte, ovviamente. Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci forzati in Africa avranno fine grazie a persone del calibro di Nice. Questo lo scrive il Time. E ci sono tante personalità dello spettacolo, della cultura e della politica, da Bill Clinton a Fiorella Mannoia, George Clooney, Emma Bonino e tanti altri, che hanno apprezzato e hanno speso parole di ammirazione per l'impegno di Nice. Oggi, dichiara Nice stessa, che ha 29 anni, lotto affinché ogni ragazza possa diventare la donna dei propri sogni, proprio come me. E porta avanti il progetto che si chiama A Nice Place, l'istituzione di un luogo sicuro dove le ragazze possono andare quando vengono minacciate dalle mutilazioni o da un matrimonio forzato in età precoce. Il libro, che poi sarà distribuito un po' dappertutto, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, eccetera, è dedicato anche a queste ragazze che devono trovare rifugio. In quali paesi, Antonella, allora viene ancora praticata la mutilazione genitale femminile? Allora, Caterina, viene praticata principalmente in 30 paesi dell'Africa e del Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell'Asia e dell'America Latina e tra comunità provenienti da queste regioni. Anche se legale nell'Unione Europea e in alcuni stati membri, la perseguono anche fuori dal loro paese e si stima infatti che 600.000 donne che vivono in Europa siano state vittime di questa pratica e che le altre 180.000 siano a rischio in 13 paesi europei, quindi questa pratica si è diffusa anche da noi. Però proprio per rimanere in tema vorrei farvi ascoltare una canzone di una testimonian di AMREF, che è Fiorella Mannoia, che con Olivia XX canta Solo una figlia. Martina ha 10 anni e vuole essere già grande, nel suo mondo immaginario pieno come il suo diario sogna un uomo buono sempre, un futuro da influencer. Nadir ha 10 anni e sa che adesso lei è già grande, nel suo mondo immaginario vuole scrivere un diario, sogna di saperlo fare e vorrebbe anche viaggiare. Ma è ora di essere una moglie, il sangue tra le gambe, un uomo grande che la spoglierà. Le hanno detto che è normale, che adesso è pronta per l'amore. Così che muore un fiore che sboccia senza sole, col gelo di una sera che non è primavera. È un bacio che non sveglia, ma che addormenta il cuore di chi è solo una figlia e un figlio non lo vuole. Nadira ha 15 anni e una bambina tra le mani, un piano per fuggire insieme all'alba di domani, gli occhi neri all'orizzonte dove muoiono le onde. Martina ha 15 anni e suo padre ha troppe mani, sua madre senza pace si fa il segno della croce. Martina ha gli occhi viola, ma si trucca e corre a scuola. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, Edu Radio e TV. Siamo sempre in collegamento per questa settimana con il nostro garante comunale di Bologna, il garante per le persone prive della libertà personale, Antonio Iagnello. Buongiorno e bentornato su Liberi Dentro. Buongiorno, bentrovati. Oggi il tema è quello della cosiddetta rieducazione in carcere per gli adulti si chiama così, nel carcere minorile si chiama educazione, e anche qui quali sono i numeri in relazione alla presenza delle professionalità giuridico-pedagogiche coinvolte? Abbiamo sufficienza di persone che si occupano per l'appunto della rieducazione delle persone detenute? Anche questa è sicuramente una delle principali questioni che vengono poste anche alla mia attenzione da parte delle persone detenute nel corso dei colloqui e nel corso della corrispondenza epistolare che possiamo intrattenere. Allo Stato, con riferimento alla presenza di educatori presso la Casa Circondariale di Bologna, siamo in una situazione nella quale ci sono 6 educatori, quindi che si occupano dei casi, comunque si seguono le persone detenute, più un capo area. Quindi a fronte, come abbiamo detto, abbiamo parlato nelle puntate precedenti dei numeri della dozza, abbiamo parlato di 750 persone, su questo dato di 750 persone circa il 60% sono condannati in via definitiva. Quindi e sono quelli che dovrebbero essere seguiti con maggiore assiduità dalle professionalità giuridico-pedagogiche, anche se laddove possibile l'ordinamento penitenziario non esclude, anzi prevede che ci si debba fare carico anche di tutte le altre persone, seppur in una posizione giuridica non definitiva. È sicuramente un dato piuttosto insufficiente, non adeguato a quelli che sono i numeri attuali e come per certi versi accennavo, una delle maggiori lamentele, una delle maggiori richieste di intervento che ricevo da parte delle persone è proprio quella legata alla scarsa frequenza dei contatti con l'educatore di riferimento. Questo poi che cosa significa? Che sostanzialmente c'è il rischio concreto, si può materializzare il rischio concreto che tutta una serie di anche vicende personali, nella misura in cui appunto in ragione del loro scarso numero, nei fatti gli educatori non vengono a respirare l'aria delle sezioni detentive, non frequentano con assiduità le sezioni detentive, può verificarsi che alcune storie, vicende personali, vicende detentive, forse per troppo tempo rimangano, lasciatemi passare questo termine, imbottigliate meramente all'interno della sezione detentiva e magari potrebbe anche esserci il rischio concreto che in una situazione, come dicevo, essere puntuali sicuramente, organizzare interventi puntuali può essere molto difficile proprio perché sono molto pochi, però potrebbe esserci il caso che alcuni segnali di richieste di aiuto possano, non essere colte per tempo. Da lì poi che cosa si può innestare? Si possono innestare tutta una serie di situazioni nelle quali magari in un primo momento la persona detenuta trova come proprio interlocutore il poliziotto penitenziario, l'operatore penitenziario che presta il proprio turno di servizio all'interno della sezione detentiva, poi a seconda di quella che è la capacità di adattamento alla vicenda detentiva, a seconda di quelle che è la capacità di resistenza alle difficoltà che sicuramente sono particolarmente complesse con riferimento alla condizione personale di privazione della libertà personale, potremmo trovare in situazioni che ad un certo punto potrebbero anche sfociare in quelli che purtroppo dobbiamo registrare essere piuttosto presenti, ma e chiamiamo eventi critici. L'evento critico. Spieghiamolo. Adesso io ho sotto i dati dei ristretti orizzonti aggiornati a settembre di quest'anno e sono stati finora 95 le persone decedute in carcere, di cui 39 persone suicide. Nel 2020 sono stati 152 invece i morti, di cui 62 suicidi, e potremmo continuare, andare avanti ancora a lungo. I numeri sono veramente anche in crescita negli anni passati. Cosa ci dicono invece i numeri della dozza quest'anno e quali sono i motivi che spingono le persone a morire di carcere, potremmo dire? mi ricollego a quello che stavo dicendo prima. Quindi abbiamo l'evento critico più tragico, naturalmente, è il suicidio. Prima ci possono essere forme legate, diciamo, a fenomeni autoaggressivi o anche eteroaggressivi nei confronti del personale, nei confronti anche delle persone detenute. Credo che ogni evento critico sia da valutare caso per caso, perché ha sicuramente una sua specificità. Ci possono essere eventi critici con riferimento a quelli che, per esempio, possono essere fenomeni autoaggressivi, che possono forse avere anche qualche carattere di strumentalità, però poi ci possono essere tutta una serie, diciamo così, di gesti parossistici che comunque sono da considerare assolutamente come indicatori di una estrema difficoltà di adattamento a quelle che sono le condizioni detentive e a quella che è la propria vicenda personale calata nella privazione di libertà personale. In questa sede qui però possiamo anche considerare, ricollegandomi come dicevo al discorso di prima, che molte volte questo evento critico è un epifenomeno, cioè noi dovremmo provare a capire che cosa ha comportato questo tipo di reazione, che laddove assume caratteri violenti è sempre sicuramente da condannare e da non minimizzare, però sarebbe davvero necessario e opportuno procedere caso per caso alla giusta contestualizzazione, anche perché questo in prospettiva potrebbe servire sicuramente a limitare questi fenomeni e a creare migliori condizioni di sicurezza sia per le persone detenute che naturalmente per gli operatori. Nel corso di questo anno di mandato, come giustamente accennava, si è verificato un evento suicidario. Alla luce di queste tragiche situazioni, e me ne sono occupato anche negli anni passati, risulta volta per volta necessario, per certi versi aggiornare, per certi versi intensificare quella che è l'applicazione del protocollo del Piano Nazionale per la Prevenzione del Rischio Suicidario. Abbiamo un piano nazionale che poi si traduce anche in un protocollo locale con riferimento alla prevenzione del rischio suicidario, che è particolarmente puntuale, che comporta, diciamo così, dovrebbe essere seguito da una formazione specifica per tutti gli operatori, con riferimento, diciamo così, a quella che è la particolare attenzione che si deve prestare nell'ambito della privazione della libertà personale a quelle che possono essere situazioni particolarmente stressanti per le persone detenute, capacità di cogliere magari segnali di disagio. E in questo senso, come dire, non possiamo negare tutta l'attività che, nonostante la condizione di sovraffollamento, nonostante le inadeguatezze di organico, viene portata avanti dalle varie aree, dall'area sanitaria, dall'area della sicurezza, proprio con riferimento a quella che è l'osservazione delle persone detenute. Però poi possiamo trovare anche, diciamo così, buone prassi che, come dire, potrebbero anche venire importate in quello che è il contesto bolognese. Faccio riferimento in particolare a una notizia che ho appreso sostanzialmente dai media, con riferimento ad un progetto che secondo me potrebbe avere un particolare valore, però dovremmo vedere che tipo di, come dire, che tipo di esito avrà avuto, che è stato impiantato, attivato presso la Casa Circondariale di Bologna. Sono state selezionate un numero di persone detenute che sono state formate specificamente per prestare assistenza morale alle altre persone. Quindi, come dire, anche sulla base di un'adesione volontaria e anche sulla base magari di quelle che possono essere innate capacità o un'innata predisposizione di queste persone detenute, sono state specificamente formate e laddove, naturalmente collaborando in stretto coordinamento con l'area sanitaria e con l'amministrazione penitenziaria, laddove venissero individuate delle situazioni personali rispetto alle quali si ritiene, scusate il cellulare, rispetto alle quali si ritiene necessario creare questa situazione di prossimità da parte di un'altra persona, avranno il compito e hanno il compito, diciamo così, di veicolare quelli che sono i segnali di disagio e quindi da lì attivare tutta una serie di interventi che comunque sia, diciamo così, mettono al centro la cura della singola vicenda della persona. Ecco. Quando avremo gli esiti di questo progetto, se come tutti speriamo questi esiti saranno positivi, il mio suggerimento è: perché non provare a laddove ci possano essere le condizioni, quindi ci possano essere anche delle persone detenute che sono disponibili, no, a questo tipo di servizio, perché non provare a importare anche presso la Casa Circondariale di Bologna questa progettualità? Certo, mi sentirei di approfondire questo argomento magari un'altra volta, questo protocollo, diciamo, di cura di sé e dell'altro, forse anche all'interno degli istituti penitenziari, perché effettivamente prevede un'attenzione verso chi è in situazione di maggiore disagio, quindi meriterebbe anche un approfondimento a parte. Per il momento io la saluto, la ringrazio, rimando a domani per l'ultima puntata di questa approfondimento con lei, e sempre ai nostri ascoltatori ricordo di iscriverci in redazione liberidentro@gmail.com. Se avete delle domande le invieremo al nostro garante comunale. Grazie, a prestissimo. Grazie a voi. Rieccoci, ben ritrovati per i saluti di fine puntata, sempre dopo la testimonianza del nostro garante comunale Antonio Iagnello. Vi ricordiamo di iscriverci anche in relazione a quello che ha detto il nostro garante comunale, redazioneliberidentro@gmail.com, tutte le domande, le proposte, le osservazioni saranno gradite e inviate a lui. E vi rimando alla rubrica tra poco su Lepida TV, ore 13:30, di nuovo alle 17, sempre su Lepida e anche su Teletricolore, Antigone, le proposte per un nuovo regolamento penitenziario, e a seguire dialoghi sulla cittadinanza, le interviste di Caterina, cioè le mie, e questa volta Giulia De Rocco per parlare di lettura in carcere. Vi ricordo che queste rubriche le potete sempre ascoltare tutte le mattine alle ore 6:30 su Radio Città Fujiko. E come al solito un saluto da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco. Ci vediamo domani. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.